dentro questo tempo. Se vieni da qua, fuggi da qua, più svelto, polvere nera, fuori dentro questo tempo. Tu sei già qua, persi in questo fumo denso. Troppi passi mi soffocano, troppi passi sbagliati. Sono cazzo di campi minati che mi scoppiano, esplodono e mi hanno tramortito. E questo impasticato delle cu pensa che sia un prato fiorito. Pratico il rito della reincarnazione col karma. Do fuoco a tutti gli stronzi e rinasco fiamma. Vivo nella miseria, scrivo di roba seria. Mi esprimo con cattiveria, respiro polvere nera. E ne ho i polmoni intasati da 15 anni. Le lastre rivelano i danni. Tengo una lapide di marmo, già pronta nel caso in cui Dio condanni me. Non mi dia tempo per quanto mi affanni e rimandi e mi snervo. Sreno il mio fisico con la coscienza in bilico, tra il bene che stimo e il male che servo, senza possibilità di orientarmi nella realtà. L'inferno è un percorso che non avevo previsto. Adesso chiedi pietà, ma non sono Cristo. Vuoi novità, ma non ho l'età per fare un disco. Giro con gente che si avvicina già ai 30 e non capisco come cazzo pensa di vivere l'adolescenza. Polvere nera, fuori dentro questo tempo. Se vieni da qua, fuggi da qua, più svelto. Polvere nera, fuori dentro questo tempo. Tu sei già qua, persi in questo fumo denso. Polvere nera, fuori dentro questo tempo. Se vieni da qua, fuggi da qua, più svelto. Polvere nera, fuori dentro questo tempo. Tu sei già qua, persi in questo fumo denso. Cerco la calma dopo la tempesta, solo clima in rivolta. Torno a guardare in alto con la mia testa. Non vedo più fumo, ma vedo sempre più scuro. Niente rose e fiori dentro il mio futuro. Allora chiudi gli occhi, immagina. La mia mente si ripristina per darti nuove evoluzioni dentro questa metrica. Respira nuovi odori, registra nuovi umori. Adesso tu sopravvivi o muori. Rimasti in vita grazie a maschere di piombo. Polvere nera ancora dentro nel mio interno. Trattengo i miei ricordi, rimango nel silenzio per ascoltare il mio destino che ora è sempre più violento. Guardo le luci che riflettono le ombre sul muro. Dal 92 che cerco il mio riparo. Chiedo l'impossibile dal karma, ma sai non sono Dharma. Io non gestisco la mia vita con prudenza. Vado in cerca di confronti, scontri e trovo solo degli inganni. Sono esiliato dentro ad un confine ostile, intrappolato a Sona, dove la vita è un filo sempre più sottile. Polvere nera, fuori dentro questo tempo. Se vieni da qua, fuggi da qua, più svelto. Polvere nera, fuori dentro questo tempo. Tu sei già qua, persi in questo fumo denso. Polvere nera, fuori dentro questo tempo. Se vieni da qua, fuggi da qua, più svelto. Polvere nera, fuori dentro questo tempo. Tu sei già qua, persi in questo fumo denso.